cazzo. Sì, va più di me, questo tu lo sai. E mi hai lasciato senza neanche dire come stai. Ma notte e giorno penso a te, che sei un bastardo, la lo so. Bene, non sto. Di certo sopravviverò. Eccomi qua davanti a te, con quello sguardo da imbecille. Dimmi cosa vuoi da me. Io no, non ti perdonerò. Cosa ci fai ancora lì? Se non sparisci un secondo, fai una brutta fine. Sì, piangerò, rimpiangerò i bei momenti, ma comunque sopravviverò. Non sai che fare per uscire dai tuoi guai. Cosa mi importa? Il mio perdono non l'avrò. La vita avanti a me, una vita senza te, ma lo sai, mi mancherai. No! No! No! Le tue promesse. No! No! No! Sempre le stesse. No! No! No! E poi non posso, adesso, adesso, adesso.